Steve a mis au point différents réservoirs. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornate, bentornati alla finestra sul cortile e buona domenica a tutti. Oggi parleremo di evoluzione, di teoria dell'evoluzione e di evoluzione dei costumi. Il pensiero di Darwin, lo sappiamo, è da tempo sotto attacco da parte dei creazionisti, dei cristiani fondamentalisti, soprattutto americani, ma ora viene messo in discussione anche dall'interno del mondo scientifico. Ne parleremo con uno di questi critici che proprio in questi giorni è al centro di molte polemiche. È lecito rivedere il pensiero di Darwin alla luce delle scoperte della genetica? Si può insegnare nelle scuole anche il creazionismo? Ma ci occuperemo, oltre che di Darwin, anche di un'altra meno conosciuta scienziata del secolo scorso che fu una pioniera negli studi del comportamento sessuale, soprattutto femminile, e che scoprì molti aspetti sorprendenti e inattesi della cultura dell'epoca vittoriana. Ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. Inghilterra, a lezione di creazionismo. Ha senso insegnare ai ragazzi le teorie dei nemici di Darwin? America, visti dagli altri. A Berkeley, grande raduno degli scienziati italiani che lavorano negli States. Germania, capo comitiva indietro tutta. Italia, Francia e altri paesi ostacolano le guide dei viaggi culturali tedeschi. Stanford. Le donne dell'epoca vittoriana non erano poi così represse sul piano sessuale, lo svela una ricerca del primo Novecento. America, dal principe azzurro al principe verde, l'amore ai tempi dell'ecocompatibilità. Dio creò l'uomo a sua immagine. È bello. Eloime a immagine di Dio. Ma chi l'ha scritta questa frase nella Torah? L'uomo, non Dio. L'uomo. La scritta, senza modestia, paragonandosi a Dio. Dio forse ha creato l'uomo, ma l'uomo, il figlio di Dio, ha creato Dio solo per inventare se stesso. L'uomo ha scritto la Bibbia per paura di essere dimenticato, infischiandosene di Dio. Era il monologo di Shlomo, il pazzo del villaggio, nel film Train de Vie. A proposito della creazione, quindi diciamo del rapporto tra conoscenza e fede, e proprio su questo tema, sulla rivista New Statesman, una rivista inglese di orientamento laburista, troviamo un sorprendente articolo di Michael Rice, biologo e sacerdote anglicano, sorprendente proprio per la sede in cui viene pubblicata, cioè una rivista di sinistra, che si interroga sulla possibilità di insegnare il creazionismo nelle scuole inglesi. Scrive Michael Rice che ormai il creazionismo è una corrente di pensiero che sta guadagnando terreno e influenza intorno al mondo, non soltanto in America, ma anche in Inghilterra, dove il 10-15% delle persone credono che la Terra sia stata creata esattamente come descritto nella Bibbia o nel Corano e che l'evoluzione non abbia fatto granché per cambiare le specie viventi, semmai soltanto piccoli passaggi da una specie all'altra. E poi c'è una corrente, spiega Michael Rice, che è quella dell'intelligent design o progetto intelligente, che dice ci sono delle strutture di irriducibile complessità come l'occhio dei mammiferi che non possono essere spiegate semplicemente con i meccanismi dell'evoluzione. Ma tutto questo, scrive Michael Rice, genera diciamo uno scisma tra una polarizzazione tra scienza e fede, cioè per cui ci sono alcune persone che sostengono che o Dio ha creato tutto oppure non ha avuto niente a che fare con la creazione, che quindi l'evoluzionismo è necessariamente ateo, e la critica che fanno i creazionisti appunto è che dalla teoria evoluzionistica si sono sviluppati tutti i mali del mondo, dall'eugenetica al marxismo, al nazismo, al razzismo. Insomma, una teoria che sfida i capisaldi della scienza moderna. Ma perché allora parlarne ai giovani nelle scuole inglesi? Beh, scrive Rice, non c'è niente di male, perché insegnare che esistono determinate correnti di pensiero non significa difenderle o cercare di indottrinare i giovani a credere nel creazionismo. Ecco, ma appunto sui problemi dell'evoluzionismo e delle critiche a Darwin, proprio in questi giorni infuria una polemica intorno ad un libro che Massimo Piattelli Palmarini ha scritto con Jerry Fodor, che è uscito in America e tra poco uscirà in Italia da Feltrinelli, e che è intitolato What Darwin Got Wrong, dove ha sbagliato Darwin. Ecco, abbiamo proprio al telefono uno degli autori, Massimo Piattelli Palmarini, che ringraziamo di essere con noi. Buona domenica. Buona domenica. Massimo Piattelli Palmarini, scienziato cognitivo, docente all'Università dell'Arizona, ma in questi mesi è in Italia, a Venezia, dove lo abbiamo raggiunto. Ecco, secondo lei ha senso parlare di creazionismo nelle scuole? Non c'è il rischio di confondere le idee ai ragazzi? Sì, c'è il rischio di confondere le idee, e direi nessuno scienziato si è mai sognato di dire ai religiosi cosa dovrebbero insegnare nelle ore di religione. Certo. E non vedo perché i religiosi dovrebbero dire agli scienziati cosa insegnare nelle ore di scienza. Quindi se ne parli nelle ore di religione, se ne parli forse anche nelle scienze politiche, quando si insegnano le scienze politiche, le varie ideologie politiche, si può menzionare queste cose di cui lei parlava un attimo fa, l'impatto del darwinismo, il darwinismo sociale, queste cose qui, ma non nelle ore di scienza. Tra l'altro poi questa cosa che l'occhio, riprendiamo, l'occhio sì, non si può spiegare evolutivamente, ma i geni per formare l'occhio sono presenti nei ricci di mare, che l'occhio non lo hanno, ma in tutti i geni c'è un certo numero di geni che sappiamo essere in altre specie, i geni che pilotano la formazione dell'occhio sono presenti nei ricci di mare. C'è una medusa che ha qualcosa come 24 occhi globulari come i nostri, che non gli servono a niente perché non ha cervello per ricevere queste immagini. Quindi non vede nulla. Quindi non vede nulla, vede il chiaro e l'oscuro, ma altre specie di meduse vedono il chiaro e l'oscuro con dei fotosensori molto molto molto elementari, quindi non so che cosa, a che argomento sia questo dell'occhio o qualunque altro argomento. Certo. Certo, la teoria dell'evoluzione è una teoria naturalistica, perché è il contratto intellettuale che la scienza ha di spiegare le cose naturalisticamente. E si sta andando molto avanti. Si sta andando molto avanti, ma nel vostro libro, il suo libro che ha scritto con Fodor, accusate Darwin di vedere tutto come un prodotto della selezione naturale. No, questo non funziona, questo non funziona. La selezione naturale naturalmente è ben reale e ogni anno ci dobbiamo rivaccinare perché i virus evolvono per selezione naturale, ma non è la comparsa di specie nuove. La selezione naturale non spiega la comparsa di specie nuove, può spiegare l'affinamento, quelle modifiche delle specie nel tempo, la formazione di sottospecie, ma non è, ormai si sa direi, il motore della apparsa, dell'apparizione, della comparsa di nuove specie. Ecco, ma quindi le nuove specie vengono create? Che cos'è questa? Le nuove specie risultano da una regolazione diversa di geni che sono stati presenti e sono sempre gli stessi, va bene, questo lo si è scoperto, sono sempre gli stessi da centinaia di milioni di anni, sono essenzialmente gli stessi geni che possono essere trapiantati, per esempio, un caso molto reale, dal moscerino della frutta, la famosa drosofila, al topo, e dal topo nel moscerino della frutta sono gli stessi geni e hanno gli stessi effetti. Quindi i geni sono sempre quelli, però naturalmente noi non siamo un moscerino della frutta né un riccio di mare, quindi la regolazione nell'espressione di questa banca di geni è quello che spiega le forme di vita che noi conosciamo. Ecco, voi parlate nel vostro libro di conformismo evoluzionista, lei lo ha scritto anche difendendosi dagli attacchi sul Corriere della Sera. Sì. Ecco, ma Darwin è diventato veramente un totem intoccabile, un dogma di cui bisogna... Direi di sì, direi direi che è diventato un dogma, è diventato un totem intoccabile. Naturalmente vi sono vari biologi che dichiarano che la selezione naturale è completamente marginale, li citiamo nel nostro libro, sono biologi illustri. Ci hanno rimproverato, dice, voi scrivete un libro sull'evoluzione e non siete biologi. Io lo sono stato un tempo, Jerry Fodor non lo è, va bene, ma noi citiamo dei biologi ultra qualificati dalle migliori università, non sono la maggioranza, ma esistono, che dicono che il neodarwinismo è superato e ci sono altri processi, altri meccanismi completamente naturali, completamente naturalistici, che cominciano a spiegare alcuni aspetti dell'evoluzione. Ci vorranno molti, molti anni di ricerche per venirne a capo, forse decenni, forse addirittura un paio di secoli. Ecco, ma non vede il pericolo di rafforzare il pregiudizio antiscientifico, le superstizioni di quelli che prendono alla lettera il racconto biblico? Ma guardi, quello lo farebbero comunque. E poi non si può non dire le cose che crediamo essere cose vere perché potrebbero essere usate in un modo o in un altro. Non mi sta bene questa cosa di non poter dire le cose perché fatte la pesca come verranno usate dagli altri. Le cose vanno dette e poi succederà quello che succederà. Bene, noi ringraziamo il professor Piattelli Parmalini, buona domenica e a grazie presto. Grazie a voi. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica sugli italiani che si fanno onore all'estero ci porta questa domenica a Berkeley, California, dove il 19 aprile avrà luogo un importante convegno, un raduno, insomma, di tutti gli scienziati e studiosi italiani in America. La organizza la ISNAF, questa è la sigla, Italian Scientists and Scholars in North America Foundation, un'organizzazione non profit che appunto vuole promuovere gli scambi all'interno della comunità italiana in America, ma anche tra gli scienziati italiani e gli scienziati americani. Tra gli altri ci saranno Marina Santilli, Terenzio Scapolla, Alberto Salleo, Alberto San Giovanni Vincentelli, scienziati e ricercatori nei campi più svariati, dalla biologia alla fisica, alla chimica, alle scienze dei materiali, all'informatica. Tra gli scienziati italiani in America ci sono ben 4 premi Nobel. La ricerca italiana cammina negli States, in Italia purtroppo segna il passo, se ne parla solo in campagna elettorale per strappare qualche voto. E ci spostiamo in Germania per parlare di una polemica che viene ripresa dalla Süddeutsche Zeitung e che riguarda i capi comitiva tedeschi in Italia. Perché se ormai da decenni la Germania, oltre ai bagnanti sull'Adriatico, esporta nel bel paese torme di turisti dedite ai viaggi culturali e alla scoperta delle nostre città d'arte, da qualche tempo i capi comitiva tedeschi a Roma, Palermo e nelle altre capitali della cultura italiana, pur essendo qualificati per illustrare le nostre bellezze artistiche, si vedono sempre più costretti a cedere il passo a guide locali che fanno pagare i loro servizi extra. Ma questo è contro i trattati europei, lamenta il quotidiano di Monaco. La lite è ancora aperta, ma un vincitore c'è già, è l'Europa unita, che lo diventa sempre di più anche passando per le beghe di condominio. La finestra sul cortile. Quando pensiamo all'epoca vittoriana e soprattutto alla condizione femminile nell'epoca della regina Vittoria, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, pensiamo alla donna del tenente francese di John Fowles, oppure ai romanzi delle sorelle Bronte, a queste donne represse, prigioniere di una concezione puritana, punitiva della vita erotica, in una società in cui la riservatezza, il perbenismo, l'ipocrisia erano i valori dominanti. Ma era proprio così Sì, andiamo a leggere un articolo sullo Stanford Magazine, la rivista dell'Università di Stanford, un articolo di Cara Platone intitolato The Sex Scholar, la studiosa del sesso. Scopriamo che agli inizi, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, ci fu una studiosa proprio di Stanford, tale Clelia Duell Mosher, che aveva fatto un lavoro di scavo e di ricerca, di indagine molto approfondita sulla condotta, sul comportamento sessuale delle signore americane. Aveva preso un campione di 45 donne nate intorno alla metà dell'Ottocento e le aveva interrogate proprio sul loro rapporto col sesso, e sorpresa è venuto fuori che non erano affatto represse, erano al contrario abbastanza disinibite. Una nata nel 1844 chiamava il sesso un normale desiderio, un'altra del 1862 diceva è una cosa molto bella e sono molto felice che la natura ce l'abbia data. La ricerca di Clelia Duell Mosher era iniziata proprio per spiegare le ragioni della differenza tra uomo e donna e di quelli che erano i pregiudizi dell'epoca sulla superiorità maschile, e che secondo la studiosa di Stanford erano dovute piuttosto, per esempio, ai corsetti troppo stretti che costringevano le donne a respirare in maniera diversa dagli uomini, al condizionamento culturale e mentale. Dal campione e dal questionario, dalle risposte al questionario, emerge che delle 45 donne intervistate, 35 dicevano che desideravano il sesso, 34 che avevano avuto l'orgasmo e 24 che il piacere per entrambi i partner era una delle ragioni del rapporto. E chiaramente questa indagine rispecchia la trasformazione dell'idea di matrimonio della fine dell'Ottocento, per cui si passava da un'idea di matrimonio d'interesse basato soprattutto su motivazioni economiche all'idea del matrimonio romantico e poi la dissociazione, diciamo, del sesso dalla procreazione. Quindi, insomma, molti dei miti sull'età vittoriana vengono sfatati da questa scoperta che abbiamo trovato sulle pagine dello Stanford Magazine. Ma intanto diamo il benvenuto alla nostra ospite Daria Galateria, grazie di essere con noi. Buona domenica. Daria Galateria è francesista alla Sapienza di Roma, è una studiosa anche di memorialistica femminile del 6-700. È sorpresa da questi dati? Molto, è un testo assolutamente straordinario, praticamente prima del rapporto Kinsley. E certo, il rapporto Kinsley. Non c'era nessun tipo di questionario così approfondito sul problema del sesso applicato poi alle donne. E soprattutto è fantastico anche il personaggio. Davvero. Questa ragazza Clelia, che con un padre molto intelligentissimo, che è un dottore, che la porta nelle visite con sé, e che però pensa che mandarla all'università sia per lei uno stress troppo grande, perché per le donne era faticoso all'epoca, e lei deve fuggire di casa con dei soldi raccolti in qualche modo. Per poter studiare. E poi si laurea nel 1900, quando c'erano 7.000 medici donne in tutti gli Stati Uniti. Però c'erano comunque problemi. Lei rifiutò un lavoro con un chirurgo perché le comunicarono che gli uomini sotto di lei non le avrebbero obbedito. Ecco, parliamo un attimo invece di questa ricerca. Ecco, sarà dopo tutto queste risposte che ci sembrano sorprendenti, però riguardano un campione molto particolare, un'elite di donne laureate, molto colte, eccetera. Forse se l'avessero fatto nelle campagne, pensiamo addirittura alle campagne italiane dell'epoca, che ne so, nel Bergamasco, nell'Agro Pontino, i risultati non sarebbero stati certo questi. Certo, sì, in effetti 34 avevano la laurea, sì, molte avevano lavorato prima del matrimonio, però di fatto fatto, era proprio questa fascia privilegiata a essere tenuta alla virtù, perché la virtù favorisce il lavoro maschile, perché non crea attaccati, diciamo, al coniuge. Certo. Per cui in realtà è vero pure che c'era il pregiudizio che le classi popolari avessero costumi sessuali più liberi rispetto alle classi privilegiate, e invece queste signore non soltanto conoscono il piacere sessuale, ma accusano il marito quando non ce l'hanno e pensano e dichiarano che non sono, gli uomini non sono appropriatamente allenati, addestrati a produrre il piacere femminile. Quindi c'è veramente una consapevolezza, un'allegria, una libertà di pensiero e di espressione in questi formulari, in questi questionari e nelle risposte di queste signore, veramente sorprendente e molto piacevole proprio da leggere. Quindi, questa, insomma, signora che era estremamente sola, che ha vissuto in questo campus mandando delle lettere a amici immaginari, tale era la sua solitudine, in realtà ha lavorato per le donne in modo molto straordinario, certo. Interessante. È molto anticipatore. La scoperta è stata fatta di questo manuscritto nel 74. Sì, in maniera molto casuale. Ma poi è stato pubblicato in libro recentemente da una studiosa che ha dato una coloritura di genere, come si fa in America, cioè certo. È molto visto dal punto di vista diciamo femminista. Beh. È un fatto che questo approfondimento della sessualità femminile in tempi veramente vittoriani, in cui si diceva per fortuna, questo dottore William Acton, che era uno dei teorici della sessualità dell'epoca, diceva le donne, la maggioranza delle donne, per loro fortuna non si occupano, non sono turbate da problemi sessuali, mentre gli uomini abitualmente sì, le donne solo eccezionalmente. Ecco, effettivamente Clelia Mosher mostra che è vero l'inverso, cioè che le donne certo. hanno una forte consapevolezza del proprio corpo e del proprio certo. piacere anche in un'epoca in attesa. Bene, noi dobbiamo quindi retrodatare in qualche maniera l'inizio della rivoluzione sessuale. Bene, noi ringraziamo Daria Galateria, buona giornata e a presto. Dal principe azzurro al principe verde. Leggiamo sulla rivista online francese Rue 89 che una nuova tendenza si è affermata tra i teenager e i ventenni americani. Si moltiplicano i siti che aiutano a trovare l'anima gemella anche agli ecologisti. Cercasi partner a basso impatto ambientale, che mangi poche hamburger, che vada molto in bicicletta o a piedi, che usi poco la macchina, che insomma produca poca anidride carbonica per aiutare la lotta al riscaldamento globale. Certo, l'ideale sarebbe che questo partner non limiti le sue effusioni per diminuire le emissioni. E per oggi è tutto, grazie come sempre a Vittoria Mussini in redazione, a Peter Bescapè in regia e a tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora.